Sudafrica 2010, i mondiali in diretta. Buongiorno da Nesprit e da Dario Ricci. A momenti ci scappa un'altra Corea. L'Italia di Lippi è inchiodata sull'1-1 dalla modesta Nuova Zelanda. Kiwi addirittura in vantaggio con Schmelz dopo 7 minuti. Il pari arriva alla mezz'ora sul rigore conquistato da Astuzia da De Rossi e trasformato da Iaquinta. Prima un palo di Montolivo, dopo tanti attacchi sterili, anche quando nella ripresa entrano Di Natale, Camoranesi e Pazzini. Ora per andare agli ottavi bisogna battere giovedì la Slovacchia, ieri liquidata 2-0 dal Paraguay, coi gol di Vera e Riveros. L'analisi di Marcello Lippi nel dopogara coi neozelandesi. Partita sofferta, è cominciata male perché è la seconda volta, che la prima volta che gli avversari, non dico che si avvicinano alla nostra area, ma buttano un pallone in mezzo all'area da lontano e abbiamo preso gol. È chiaro che poi non è semplice, comunque ci siamo riusciti, abbiamo condotto una partita sempre come è normale che fosse, anche se fossimo stati 0-0 sarebbe stato normale che fosse così. Tutta l'attacco, tutta con grande volontà, non è certo la volontà che è mancata ai ragazzi, mentre invece un po' di lucidità è mancata, un po' di intraprendenza anche in certi momenti da parte di certi giocatori. Da Cassano a Balotelli a Totti, di fronte a tanta pochezza offensiva si guarda chi in Sudafrica non c'è, ma Daniele De Rossi difende gruppo e CT. Guai se uno di noi adesso, quando è una mista, reclamasse o invocasse un altro giocatore. Siamo tutti insieme, e come se ci fosse stato qualche altro giocatore al posto mio magari avrebbe marcato meglio Alcaraz alla prima partita, se ci fosse stato un altro giocatore al posto di un altro avrebbe tirato meglio anziché fuori. Non si può, e non lo posso fare io. Fate voi, pensate quello che pare. Io difendo tutta la vita il mio gruppo e le scelte del mio allenatore. Attaccanti a secco, dicevamo, uno su tutti, Alberto Gilardino. Non siamo riusciti a giocare come ci eravamo detti, però c'è ancora la grandissima volontà e determinazione di fare una grande gara giovedì e passare il turno. Ho voglia di far gol, quella ce l'ho sempre avuta, è il mio mestiere, quindi spero giovedì di poter essere in campo e di far gol. Sono due partite, Gila, che ti hanno tolto delle certezze, delle sicurezze dal punto di vista emotivo, perché tu sei il bomber di questa squadra, le difficoltà si sono viste in campo. Sì, ma non mi hanno tolto nessun tipo di, a livello umano, a livello caratteriale non mi ha tolto nulla queste due partite. Sono consapevole che quando ci sarà la possibilità farò gol e sicuramente andremo bene e vinceremo. Capitan Cannavaro tira le somme di un pomeriggio amaro. Dispiace perché comunque c'è molto rammarico, perché comunque cerchi, dai il massimo, cerchi con tanta volontà, di vincere le partite, non ci riesci. Io sono tranquillo perché ho visto anche oggi i miei compagni lottare, andare in campo e cercare la vittoria. Quando trovi due partite, due squadre che non giocano, si chiudono indietro, è dura. Era però anche una situazione tattica prevedibile, no, capitano? Alla luce del fatto da campioni del mondo è chiaro che gli altri ci chiedono di fare la partita. Penso che l'abbiamo fatta, il mister ha cambiato anche modulo, il mister ha cambiato anche posizione di qualche giocatore, abbiamo cercato di trovare la chiave per aprire un po' questa porta, ma non ci sono riusciti. Ci sono ancora assi nella manica, cioè soluzioni tattiche che possono sbloccare questo attacco, questo gioco? Non so, speriamo, perché comunque giovedì dobbiamo vincere, ma al di là del gioco, della voglia, noi dobbiamo vincere, perché se non vinci non passi il turno. A proposito di big in crisi, la Francia è nel caos. Dopo la cacciata di Anelka per la lite col CT Domenech, ieri la squadra non si è allenata per solidarietà con il giocatore. Il capitano Evra ha avuto un litigio col preparatore atletico. Davvero non soffre invece il Brasile, che ieri sera ha travolto per 3-1 la Costa d'Avorio nel gruppo G. Doppietta di Luis Fabiano e rete di Elano. Per gli ivoriani rete di Drogba nel finale e, sempre negli ultimi minuti, espulso Kakà. E oggi ancora per il gruppo G in campo Portogallo e Corea del Nord. Io confio molto in mio equipo, in Portogallo, in miei giocatori. Sono fiducioso nella squadra, faremo davvero una buona gara, dichiara la stella lusitana Cristiano Ronaldo. Poi spazio al gruppo H col duello tra Cile e Svizzera, capoliste a 3 punti, e la Spagna che dopo il KO con gli elvetici cerca il riscatto contro l'Honduras. Per il momento da Nesprit è tutto, ancora l'augurio di una buona giornata.